Commissario Montalbano. L'odore della notte di Andrea Camilleri. Sceneggiatura in 10 puntate di Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Regia di Alberto Sironi. Quarta puntata. Così come aveva indicato Carmela, il commissario pigliò subito la seconda a sinistra. Era una di quelle rare strade che sono ancora in grado di dirti subito dove vanno a parare. In aperta campagna. Oggi non c'è nessuno perché non è festivo. Ma devi vedere il traffico che c'è il sabato e la domenica. Ci credo, ci viene spesso. Quando capita. Senta, volevo sapere qualche cosa di più sul meccanismo che si era inventato Gargano. Per esempio, i soldi che razziavate, dove li metteva il ragioniere? Guardi, certe volte era Gargano ad arrivare con gli assegni. E allora o io, Maria Stella o Giacomo li depositavamo nella filiale della cassa di credito di qua. Lo stesso facevamo se il cliente si presentava in agenzia. Ma dopo un certo tempo Gargano si faceva accreditare i soldi nella sua banca di Milano. Anche là, quanto abbiamo saputo, i soldi non restavano molto. Pare che andassero a finire in Germania o nel Liechtenstein, non so. Evidentemente stava accumulando i soldini all'estero per fotterci tutti quanti al momento giusto. Ma perché anche lei è stata... fottuta? No, io non gli ho affidato nemmeno una lira. E comunque anche volendolo non avrei potuto. Ha conosciuto papà? Però mi ha fregato 2 mesi di stipendio. Posso fare una domanda personale? Ma si figuri. Gargano ha tentato di portarsela a letto. Beh, ufficialmente mi faceva la corte. E anche la povera Maria Stella la faceva. Maria Stella era gelosissima di me. Ma se io un giorno avessi detto a Gargano che ero pronta ad andare a letto con lui, sarebbe svenuto. E perché? Gargano era gay. Gargano era gay? Già. Devo ammettere che anch'io ci ho messo un poco a capirlo. Giacomo invece l'aveva capito subito. Forse perché lo era magari lui. Magari Giacomo Pellegrino è gay? Sì. Ah, prima che me lo domandi le devo dire che questo mi sono dimenticata di specificarlo a quello stronzo di Augello. Ma perché gli va tanto col dottore Augello? Vede, commissario, io... con Augello ci sono andata a letto. Perché mi piaceva. Però lui, prima che me ne andassi dalla stanza di albergo, nudo, con un asciugamano sul pisellino, mi comunicò che era fidanzato e che era prossimo a sposarsi. E fu così meschino che io me la pentivo di esserci stata. Tutto qui. Vorrei scordarmelo. Ma scordiamoci, senta. La signorina Cosentino è al corrente che Gargano è gay? Beh, io penso che era talmente persa nel suo delirio amoroso che non si sarebbe accorta di niente. E poi Maria Stella non è in grado di distinguere un gallo da una gallina, insomma. E secondo lei tra Giacomo Pellegrino e Gargano ci sia... Vuoi sapere se andavano a letto insieme? Ecco. E beh, io sarei più per il sì che per il no. Lei non ha avuto più notizie di Giacomo Pellegrino dopo la scomparsa di Gargano? Ah, io so solo che la mattina che Gargano non è arrivato non si è fatto vedere nemmeno lui. E non mi meraviglio. Giacomo era l'unico che ci capisse qualche cosa degli affari di Gargano. Si vede che la mattina avanti è passato alla banca e lì gli hanno detto che i soldi da Milano non erano arrivati. E lui ha pensato bene non farsi vedere. Almeno io ho pensato così. No, hai sbagliato, perché Giacomo Pellegrino è partito per la Germania un giorno prima di quando Gargano sarebbe dovuto arrivare. È vero? E a fare che? Devo andare lì per affare una mesata su ordine di Gargano. Ma? È vero che Gargano ogni tanto spediva Giacomo a risolvere certe situazioni, ma si trattava di questioni di scarso interesse e sempre nelle nostre agenzie di provincia. No, non credo che l'avrebbe mandato in Germania per affari importanti. Ho detto che Giacomo ci capiva più di noi, ma non era certa all'altezza di manovrare in campo internazionale. Non ha né l'età né l'esperienza. Penso che invece ha tirato fuori questa scusa con i parenti perché voleva sparire per un po'. Aveva paura dei clienti inferociti. E che se ne sta ammucciato per un mese? Boh, senta, non so che dirle. Le dà fastidio se fumo? No, no, prego, prego. Mi fa accendere? Ci dovrebbe essere un accendino lì nella sacca. Non c'è. Come non c'è? Scusi, ce l'ho messo un paio di giorni fa. Michela, di colpo, gli mise la razza sopra le spalle e si impadronì della bocca di lui, principiando una sorta di coscienziosa esplorazione con la lingua. Mister, mi scusi. Hai trovato il numero di targa? Non riesco a trovare il dottor Augello, nemmeno sul telefonino, commissario. In quale delle sue carte? Mi autorizza lei? L'autorizzo io. Vai. Non c'è bisogno, già fatto. Quando fai così ti piglierei a martellare. Senti, torno di là a guardare delle carte da Augello. Voglio sapere esattamente in che giorno tutti aspettavano l'arrivo del ragionier Gargano. Primo settembre, commissario. C'erano gli interessi da pagare. Alle 9 del mattino già l'aspettavano una ventina di persone. Oggi è il 5 di ottobre, quindi significa che non si hanno più notizie da circa 35 giorni. Pronto? Ah, pronto, signorina Cosentino, Montalbano sono. Mi scusi se la disturbo, ma ho bisogno di un'informazione. Me dica. Senta, quando il ragionier Gargano veniva giù in Sicilia, come ci arrivava? In macchina, la sua. E che si faceva? Milano Vigata in macchina? No, assolutamente. Caricava la macchina sul traghetto da Napoli a Palermo. E la stessa cosa al ritorno. Gli prenotavo sempre una cabina singola. Ho capito. La ringrazio e mi scusi ancora per il disturbo. Senti, prendi sto malloppone e portatelo via. Commissario, li ha fermati? Sì, li ho fermati. Mettiti seduto che te devo dire quello che devi fare. Montalbano riaprì il frigorifero e non ci trovò niente di speciale. Si preparò per andarsi a curcare. Prima però voleva scegliersi un libro da leggere. Rimase incerto tra l'ultimo libro di Tabucchi e un romanzo di Simenon quando squillò il telefono. Pronto, Montalbano sono, chi è? Ti disturbo, è tardi. Ma chi è? Sono Mimì. Oh, Mimì, dimmi. Mi puoi dare 5 minuti? Parla, dimmi. Non per telefono, Salvo. Non per telefono, che fai? Vuoi venire qui? Magari, se non disturbo. Vieni, t'aspetto. Ciao. Chi è? Sono Mimì, ti stavo chiamando da qua fuori. Mannaggia, telefonino, mannaggia. Mimì. Buonasera, che è successo? Niente. Che vuol dire niente? Niente, poi te lo spiego. Ce l'hai 2 dita di whisky senza ghiaccio? Accomodo. Che stavi mangiando? No, non ti preoccupare. E allora ti ho disturbato. E ti dico, non ti preoccupare. Tieni. Allora, eccoci qua. Dimmi. Ho un problema. Non ti vuoi maritare? Che te l'ha detto? Lasciamo perdere. Ma non è che io non mi voglio maritare. Io a Beppe ci voglio bene. A me mi piace tutto, lei mi piace come cammina, come si veste, come cucina, come fa l'amore, mi piace tutto. Ma non mi sento di maritarmelo. O meglio, io mi sento di maritarmelo. Però certe notti io conto le ore che mi separano dal matrimonio. Io vorrei pigliare il primo aereo e scapparmene in Papua Asia, guarda un po'. Se proprio vuoi scappare ce l'ho io un paio di indirizzi dove te potrei spedire, eh? Ma me ne devo andare. Ma mica sono venuto qua per farmi prendere per il culo, sai? Mimì, sto dicendo così per sdrammatizzare. Sdrammatizzare, io mi sento malissimo. Vogliamo andare avanti? Veramente ti interessa? Ma certo che mi interessa. No, è che io non lo so quello che mi succede, sai? Io certe notte mi sento che ho il cuore d'asino. La notte presto mi sento un cuore da leone. Io mi sento spaccato a metà. Mi capisci? Certo. Io certe volte ho scanto di prendermi degli obblighi che io tanto sono sicuro che non rispetterò. La notte appresso invece Ma vedo padre dei quattro figli, io. Non so risolvermi, Salvo, io. Io ho paura di pigliare il fuiuto un attimo prima di dire sì. E lascio tutto in 48, Ma poi, beb. Come se la piglierebbe una botta del genere? È uno stellicidio, Salvo. Mi capisci? Sì. Ti sto annoiando? No. Come era capitato la volta precedente, Augello e Montalbano si scolarono tutto il whisky che c'era in casa. Il primo a crollare fu Augello, esausto per il monologo durato 3 ore. Si sussì e niscì dalla camera. Montalbano pensò che era andato in bagno. Si sbagliava. Mimì si era gettato per traverso sul suo letto e ronfoleava. Ma vaffanculo, Mimì. Il commissario Montalbano, l'odore della notte, con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante, e con Cesare Bocci, Claudia Fichera, Peppino Bazzotta, Angelo Russo. Musiche originali di Franco Piersanti. L'odore della notte di Andrea Camilleri è pubblicato da Sellerio. Posta elettronica sceneggiato@rai.it.